dell'anima scrivo in privato. Il tuo silenzio parla, la dice tutta tutta, la verità nascosta, quella che hai nella pancia. Danzatori suonano, arcobaleni sul tuo corpo, ovunque tu sarai perla, il tuo silenzio parla. Non si dice tutto con le parole, un solo sguardo basta. Sfiora il mare, accarezza il cuore, non essere triste, amore. Il tuo silenzio strilla, urla quando il cielo è nebbia. Dentro ogni uomo c'è sempre una donna, dentro una donna sempre una stella. Lasciati ascoltare anche quando fai tenaglia e muti il cielo in serra e metti i fiori in terra. Il tuo silenzio parla, la dice tutta tutta, la verità nascosta, quella che hai nella pancia. Danzatori suonano, arcobaleni sul tuo corpo, ovunque tu sarai perla, il tuo silenzio parla.